Neppure io ho potuto dormire, le rispose Andrea, poi si interruppe perché s'avvicinava il cameriere. Che prendi? La birra? E senza aspettare la risposta di lei ordinò due birre. Emanuela fissava sul tavolo la tovaglietta a quadri rosso e azzurro, proprio lì dove c'era una macchia di ruggine. Non poteva meno di notare che c'era quella macchia di ruggine, anche se tutto crollava attorno a lei. Tante volte erano venuti in quella birreria, anche d'estate, a prendere il fresco nel giardinetto. Entravano gruppi di preti, assetati e giocherelloni. Schioccavano attorno a loro i mantelli, le sottane. Sedevano facendo crocchio, le mani al bicchiere di birra, tutti come ciechi dietro gli occhiali spessi. Emanuela si domandava, chissà perché tutti i preti sono miopi, forse per vedere il mondo più di lontano. Andrea era lì che si guardava le mani. Ella aspettava che parlasse, stava attenta, pronta, ma egli continuava a tacere e lei non poteva impedirsi di pensare a cose disparate. Mi sarebbe assai più facile perdonarti. Infine lui riprese, continuando il discorso interrotto. Io non ho dormito stanotte, appunto per convincermi che perdonarti è impossibile. Tu stessa non vorresti che io ti perdonassi. Io, Andrea? Tu? Non oggi, oggi mi saresti grata, avresti voglia di baciarmi le mani, vero? Ma non dimenticheresti mai che ti ho perdonata. Sei pazzo? Non credo, non ancora. Impazzirò domani, quando capirò che veramente è finito. Stanotte sapevo che t'avrei rivista per spiegarti. Era come se non fosse finito del tutto, c'era questa speranza, ma dopo, tra poco, tra un'ora. No, non piangere, no, così come sei, non ti amo più, chi ti conosce? Emanuela che conoscevo io, quella che m'ero fatta, insomma, se fosse andata a dormire con qualcuno, almeno l'avrebbe fatto per amore. Invece no, neppure l'amavi, hai detto. L'hai fatto così, per sapere cos'era. Dovevo accorgermi fin da principio che sei di quel genere di donne che detesto. Come si chiama la pupa, Stefania? La tieni in collegio, vero? Nessuno deve saperlo. Capisco. Ma che ti importa se tu lo sai e che c'entra la bambina? Ma tu non ami neppure lei. Chi ami? No, no, no, ti prego. Se mi avessi amato avresti agito altrimenti. Ami te stessa soltanto. Quella che vorresti essere. Ti innamori dell'impossibile. Ma lasciami parlare. E che parli a fare? Diresti altre bugie. Non ti credo più. Adesso spiegami, quando andavi a trovarla? La domenica? E io dove credevo che tu fossi? Ah, ho capito. Ogni volta ti giustificavi con una scusa diversa. Che sciocco. Ti immaginavo con le suorette a pregare o con le compagne e tu invece. Forse come hai fatto adesso per la bambina, avresti fatto dopo, per andare da un uomo, per vedere cos'era il gusto di tradire. Sì. T'ho capita adesso, sei di quelle che vogliono togliersi tutte le curiosità. Io non ti toccavo per non distruggerti. Che stupido. Vedi, sono tanto stupido che adesso vorrei dirti non è vero, non mi hai detto nulla. E rivederti come ieri mattina, prima che parlassi. Fece una lunga pausa, poi riprese accorato. Perché hai parlato? Forse non me ne sarei accorto la sera delle nozze. Tu sei abbastanza abile, io tanto innamorato. Perché hai parlato? Sarei stato felice, non avrei mai saputo niente di te. Avrei avuto una moglie di fantasia, tutta immaginaria, tutta creata da me, tutta diversa dalla realtà, tutta una bugia, ma non lo avrei saputo mai. Perché hai parlato? Adesso sono io che ti rimprovero di essere stata sincera. Andrea seguitava a parlare per farsi male ed Emanuela piangeva, aveva gli occhi colmi di lacrime e pensava che era stanca. Soltanto molto stanca. Tutto le si era presentato sempre tragico, difficilissimo. S'era trovata sempre di fronte a posizioni insormontabili. Come spiegarlo? Che poteva fare? Avrebbe dovuto buttarsi nell'Arno quando le nasceva dentro la bambina. Neppure il denaro le serviva a nulla. Il vento portava anche quello. Avrebbe voluto che già questo colloquio fosse finito. La birreria si faceva oscura e lei si sentiva vincolata, infastidita. Che parlava a fare Andrea se voleva finirla? La lasciasse andare allora. Devo esserti sembrato ben sciocco, no? Perciò avevi per me talvolta carezze e sentimenti materni. Adesso capisco certi tuoi atteggiamenti, certi tuoi sguardi assenti quando io parlavo del futuro. Sorridevi e annuivi come per blandire un bambino. Venivi da me mascherata. Per il tuo carattere questo doveva essere la maggiore attrattiva. Certo, la sera pensavi, quel caro, povero Andrea. E restò sospeso su questa frase. Emanuela non lo contraddisse ed egli riprese: Stanotte mi sono domandato se io ero stato sempre franco con te, se mai ti avevo mentito. Ma fin dal primo momento sono stato sincero. Non ho neppure cercato di apparire migliore per conquistarti. T'ho mostrato di essere nervoso, duro alcune volte. L'unica cosa che ti ho nascosto è di aver avuto qualche volta una donna mai vista prima, così, come prendere un'aspirina quando hai mal di testa, ma dopo, quando rientravo nella mia camera, vedendo la tua fotografia, quel sorriso infantile che hai, quell'aria calma e sicura, mi facevo orrore. Ridicolo tutto questo per un uomo, no? Sì, ridicolo, lo so, ridicolo, soprattutto ai nostri tempi. Forse i nostri nonni erano più dissoluti di noi, molto di più. Noi abbiamo una morale più ferma. Gli uomini sono oggi come dovrebbero essere le donne, credono ai sentimenti ai quali voi non credete quasi più. È forse una reazione? Tu non hai mai saputo a che punto fossi amata. Lo sa solo mia madre, che mi ha visto cambiare, chiudermi, isolarmi, tendermi tutto verso un'attesa già estraneo alla casa, a loro, già tutto preso di questa casa mia che mi attendeva, di questa mia donna. Che stupido! Vi fu un silenzio lungo. Ed Emanuela intanto cercava inutilmente che cosa dire, ma non sapeva che ripetere. Avevo paura di perderti, tanta paura di perderti, Andrea. E non soffriva più. Quasi. Ripeteva queste parole perché doveva dire ogni poco qualche cosa, ma si sentiva dentro un'anima fredda, fredda, che stava lì a guardare la disperazione di Andrea, infastidita e dolente di non saper anche lei affliggersi così. Non è vero, non potevi temere di perdermi poiché non mi amavi. No, non insistere, o almeno mi amavi a tuo modo, un modo che non è vero amore, è gioco, è una cosa qualunque. Se mi avessi amato come io volevo, avresti sentito il bisogno di dirmi tutto di te perché io ti conoscessi interamente, anche in quella che poteva essere una tua vergogna. Avresti preferito perdermi che continuare così. Saboiava il giorno. Erano seduti nel fondo della birreria, vedevano per l'apertura della porta che dava sulla piazza San Pietro i tram passare stridendo sulle rotaie, i fanali accesi. Emanuela, stordita, snervata, avrebbe voluto alzarsi, gridare: Basta, basta! Non più udire l'implacabile voce dell'uomo accanto a lei, lasciarlo, uscire fuori all'aperto, sentirsi sconsolatamente sola e camminare. Camminare, ripetersi: È finito, è finito! Andare lungo i muri senza vedere la gente, passando tra loro come cieca, lasciandosi urtare, assente, svagata, poi alla fine chissà dove, ma lontano, cadere per terra esausta e dormire, dormire a un angolo di strada e svegliarsi senza più pensieri. Quando ti vidi la prima volta in facoltà, Andrea continuava, mi apparisti subito diversa dalle altre, e seppure mi parve un po' affettato quel tuo libretto di pelle in cui prendevi gli appunti, sentii che in quel gruppo di goffi orsacchiotti tu eri una donna. Ascoltavi Belluzzi parlare con grandi occhi ammirati, non avevi un'aria di studentessa. Infatti non lo eri. Sai che fui contento quasi quando non ti vidi al pincio all'appuntamento. Fu per me la conferma che tu eri diversa dalle altre. Poi ci fu il funerale di Milly. Dicevano che lei avesse per te un affetto quasi morboso. È vero. Milly sapeva? Emanuela scosse la testa. Nessuno. Andrea riprese sorridendo. Nessuno sapeva. Tutti ti abbiamo creduto un'altra. Che artista. Mai ti sei tradita. Hai lasciato che io amassi quell'altra, che Milly amasse quell'altra, che le compagne dessero fiducia a quell'altra, quell'altra che non esisteva, e tu, lontana e indifferente, stavi a goderti lo spettacolo. Perché non lo hai detto quel primo giorno al ristorante? Forse ti avrei amato ugualmente, avrei potuto. Sì, Andrea, senti, tu puoi, io farò, senti, io potrei. No, Emanuela, no. Tu non puoi più nulla ormai, né io né te possiamo, mai più potremo fare qualcosa l'uno per l'altra. Restò alcuni giorni a letto, supina, all'oscuro. Venivano a trovarla le suore, le compagne. Hai la febbre? No. Hai mal di capo? No. Hai mal di gola? No. Sempre ripeteva a bassa voce: Sono stanca. Le altre la lasciavano dormire, nella penombra data dalle persiane chiuse, inerte, raccolta, Emanuela rifletteva. Adesso ho parlato, è finito. Non avevo mai compreso, Andrea. Sono stata sciocca, bisognava, ma ora è finito. Restava lunghe ore a pensare. S'era costruita nella mente la casa che avrebbero avuto insieme, la luce mite della lampada che avrebbe illuminato le loro sere, si spandeva attorno e la bagnava della sua chiarità. Tutto ciò pareva vero e adesso era finito. Questo pensiero le dava un senso di desolata tristezza e insieme di sollievo. Era libera. E bisognava prendere un'altra strada, passare il ponte, scegliersi una vita, non lasciarsi vivere un giorno dopo l'altro, a caso. Augusta le aveva chiesto un giorno: «Ti piace ascoltare la musica?» Ecco, questo avrebbe fatto. Insieme sarebbero andati a sedersi nella grande sala e avrebbero udito scendere su di loro la musica, bagnarle di un'innocente dolcezza. Poi avrebbero comperato libri e fiori e avrebbero preso insieme un buon tè caldo in camera, guardando dalla finestra smuoversi le cime dei frondosi alberi della villa. Dalla finestra il cielo si sarebbe spinto nella camera come uno sguardo. Superare la giovinezza, come Augusta predicava, certe volte in pochi anni si vive un'intera vita. Questo era stato il suo destino. Vinca diceva sempre che il destino ci conduce inesorabilmente. E non c'è nulla da fare per affrancarsi, per sciogliersi. Presto i suoi occhi si sarebbero cerchiati come quelli di Augusta per lo studio, per l'aria viziata della camera, per la cruda solitudine. Già soffriva di questa futura miseria fisica, ma sotto questa pena palpitava la remota certezza di qualcosa che sarebbe sopravvenuto a salvarla. Andrea, Andrea che non poteva fare a meno di lei. Andrea sarebbe ritornato una sera. L'avrebbe attesa all'uscita della sala dei concerti, l'avrebbe presa per il braccio, le avrebbe detto: «Vieni con me». E Stefania? E Stefania? Un incubo, un'ossessione, Stefania. Sì, non c'era dubbio, bisognava rinunciare a tutto per Stefania, anche al collegio, anche alla solitudine, anche alla musica. Era lei che la teneva per il braccio. Stefania. «Perché piangi, Emanuela?» «Sono stanca». Le amiche si dicevano tra loro: «È un esaurimento nervoso, l'emozione della morte del padre». «Non piangere così, Emanuela. Vuoi sentire la lettera che ha scritto Silvia?» «Se Silvia fosse stata qui, forse Emanuela a lei avrebbe parlato». «Siediti qui vicino a me, Silvia, ho da parlarti». «Cosa devo fare, Silvia?» Stupita, Silvia l'avrebbe guardata con attonita maraviglia. «È qui, Silvia». «Qui? Ma che cosa dice, Emanuela?» Valentina le chiese poi, e poi guardò Augusta con preoccupazione. «Silvia è a Littoria. Vuoi sentire la lettera?» Emanuela aprì gli occhi, guardò le compagne. Valentina, grassa e bionda, sembrava cresciuta troppo in fretta, come certi frutti che sono tutta apparenza e niente sapore. Augusta, vestita in abito a giacca, le appoggiava la mano sulla spalla. E l'altra stava composta e sorridente, simile a un cane sotto la carezza del padrone. Erano brutte, stravaganti, ed Emanuela mai le avrebbe scelte per amiche, ma, come diceva Silvia, le amiche non si scelgono, capitano. E queste le erano capitate. Sì, leggete. Scriveva Silvia che Littoria è una città nuova, e una città nuova dapprima non accoglie, respinge. Chi arriva in un posto nuovo è un poco come un povero, ha bisogno di tendere la mano a qualcuno, talvolta ha bisogno anche di nascondersi e lì non era possibile. Poche strade e ampie, aperte, molto illuminate, tutto è limpido, trasparente, ti specchi dappertutto. La tua immagine ti viene incontro in mille modi, mai puoi dimenticare che esisti. Una città nuova manca di tradizioni e perciò sembra che tutti aspettino di sapere quello che debbono fare. Nessuno ha una propria vita intima, ancora si sente bisogno della comunità organizzatrice che aiuti a vincere il freddo degli edifici e delle strade. Tu sai, Augusta, che io ho sempre bisogno di un rifugio. Se avessi fede andrei in chiesa a pregare, benché questa chiesa 900, dove i passi si specchiano nel marmo del pavimento, non inviti a rifugiarsi. Ma lo sapete bene, io sono incapace di pregare, di credere. Mi rifiuto di accettare ciecamente tutto ciò che gli altri hanno già preparato per me. Ho sempre quel maledetto bisogno di ragionare. Voi cercate la prima sera, le prime sere, mi apparivate a distanza astronomica, ingoiate da un baratro. Mai esistite. Cercavo di convincermi che ogni principio è difficile e freddo, ogni cosa m'era ostile, come al mio arrivo in collegio. Vivo insieme con gli altri insegnanti e per la prima volta ho provato un disagio fisico di me stessa per i miei occhi storti che non possono invitare gli altri a guardarmi, perché non si sa mai dove io guardi precisamente. Temo di non avere uno sguardo sincero. È un terribile disagio questo. Ho bisogno che gli altri si abituino a me e che io mi abitui a loro. La mia timidezza diviene sempre più invincibile. Perciò voi che mi conoscete comprenderete che il più grande sforzo è stato quello di traversare dietro al preside nell'aula allo spazio dalla porta alla cattedra. I ragazzi erano in piedi e mi osservavano. Il preside ha parlato di me, mi ha presentata in modo lusinghiero, avrei dovuto esserne contenta. Quando egli se ne andò avrei voluto andarmene con lui. Rimanemmo invece soli. I ragazzi e io. Seconda ginnasio, 12, 13, 14 anni, ragazzi alti quanto me. In piedi mi consideravano 16 ragazzi, 32 occhi che sentivo addosso a me come punture. E anche io li guardavo in piedi, le mani sulla cattedra. E il coraggio mi venne proprio dal contatto con quel legno. Pensai che era la prima cattedra mia e che da lì la mia voce si poteva alzare con parole mie, idee mie. Sorrisi. E i ragazzi mi sorrisero e così è cominciato. Alcune sere sono molto stanca, ma il lavoro non mi pesa. Mi pesa la responsabilità di me stessa, la mia esistenza sulle spalle che non devo sciupare. Comincio a temere che la vita sia troppo breve. Ho tante cose da fare, tante cose da apprendere, da dire, che mi impaurisco della morte, che mi colga a tradimento prima che io abbia finito. Ho ricevuto qui la partecipazione di nozze di Anna. Quando spose Emanuela? Datemi il nuovo indirizzo di Vinca. Sarete ben sole adesso. Che tempo fa a Roma? Qui è bello. È domenica, gran silenzio. Io guardo dalla finestra e mi accorgo che siamo alle soglie della primavera. Valentina, che leggeva, abbassò il foglio sui ginocchi. Augusta la guardò, le batté affettuosamente sulle spalle e la pregò: Continua, cara. La ragazza rispose: Non è più la stessa, è più leggera, più serena, forse nemmeno si tormenta più. Sì, fece Augusta, è appagata. E poi insisté: Continua. Passarono giorni incolori. Emanuela si era alzata, la testa vuota, disorientata come dopo una lunga malattia in convalescenza. Doveva riprendere abitudini interrotte che non le parevano più naturali. Faticava a riallacciarsi ai giorni trascorsi e tuttavia si sentiva pervasa da un benessere di guarigione insperata. Non usciva dal collegio, quasi temendo di trovare fuori una città diversa, sconosciuta, nella quale dovesse soffrire per dirigersi e ambientarsi. Una sera, risalita in camera sua dopo la preghiera, si sedette al tavolo per scrivere una lettera alla madre, raccontarle, spiegarle, smuovere con quell'atto la nebulosa nella quale viveva. E prendendo la penna in mano non sapeva se alla fine avrebbe scritto Vengo o Vieni tu, mamma mia. Stava così, la mano sospesa sul foglio bianco, quando la porta si aprì e Valentina s'affacciò sulla soglia. Emanuela, che si era volta di soprassalto allo scatto della maniglia, l'invitò, sorridendo. Entra! No, ella rispose. Devi salire su da noi, dobbiamo dirti qualche cosa. Che c'è? Vieni su. Adesso vengo, va bene? T'aspettiamo. E se ne andò. Che aveva? Negli ultimi tempi Valentina era profondamente mutata. La sua fresca allegria s'era dissipata, il continuo contatto con Augusta pareva averla appassita, averle dato un odore di chiuso e di vecchio, quale prendono i vestiti che stanno a lungo negli armadi. Anche il suo parlare s'era fatto sentenzioso e sostenuto, con qualcosa di amaro nel tono della voce. Erano sempre insieme. Augusta, pur serbando su Valentina l'autorevole prestigio che le derivava dalla maggiore età, era piena di premure per lei, spesso la chiamava cara. Più di rado invitavano Emanuela a salire da loro e se lei entrava nella camera di Augusta le trovava che leggevano versi, le mani nelle mani, come se mescolassero le loro fantasie e i loro respiri. Un giorno Ingrid, la svedese stravagante, domandò a Emanuela: Non te la fai più con quelle due? E solo allora questa s'accorse che da qualche giorno le due amiche si erano più che mai distaccate da lei, la schivavano. Ingrid volse uno sguardo interrogativo sul cerchio delle compagne e poi chiese a Emanuela: Vuoi venire con noi? Era un gruppo di giovanissime, pochi anni in fondo, le dividevano dal vecchio gruppo di Emanuela, che che s'era andata via via disfacendo. Eppure erano diverse, come se ci fosse di mezzo un'intera generazione, sprezzanti, volitive, temperate d'ironia, tutte tra loro si somigliavano, le stesse pettinature, gli stessi vestiti, e anche i lineamenti dei loro volti parevano tratti da uno stesso stampo. Emanuela riudì in sé le parole di Xenia, 2 anni innanzi, quando era entrata al Grimaldi. Vieni con noi di lettere? Noi di lettere era un gruppo che pareva tenuto compatto dalla diversità delle ragazze che lo componevano. Tutte differenti, singolari di intelligenza e di estri, con un gusto vivace per la polemica e i contrasti. Nelle nuove ogni gusto di discussione era scomparso. Le loro personalità parevano levigate e coperte della medesima vernice, spesso parlavano di sport. Ma Emanuela intuì che la sua posizione nel nuovo gruppo sarebbe stata identica a quella nell'altro. Anche qui avrebbe dovuto costruirsi la sua nicchia di menzogne e vivervi sostanzialmente separata dalle compagne, e infine un giorno, inevitabilmente, troncare il suo fittizio legame con loro. No, grazie, rispose con gentilezza. Quelle rimasero deluse perché Emanuela ispirava simpatia. Fa come vuoi, Ingrid disse. Poi si volse alle altre ed Emanuela capì che non l'avrebbero cercata più. Quando Emanuela salì, trovò Augusta e Valentina sedute accanto, fumavano. Lei fece entrando: Ciao ragazze! E le guardò. Che c'era? Qualcosa c'era. Si impaurì. Adesso Valentina assomigliava ad Augusta. La guardavano, accigliate. Avrebbe voluto andarsene, invece chiese aggressiva: Che volete? Poi fece un passo indietro verso il muro, quasi a difendersi da un colpo inaspettato alle spalle. Questa camera era isolata dal resto del pensionato. Le altre compagne erano distanti, non potevano avvedersi di ciò che accadeva là dentro. S'udiva di tratto in tratto venire dal piano di sotto un rumore di voci. Augusta lentamente si alzò, lentamente mosse incontro a Emanuela. Aveva le labbra contraffatte, gonfie, gli occhi appesantiti da due borse livide, violacee, lo sguardo fisso puntato sulla compagna ignara, come un'arma lungamente affilata che ora va dritta al segno. Pareva che con quel lento muoversi, con quella fissità inesorabile dello sguardo, ella si studiasse di non sciogliere e dissipare in un gesto improvviso, in un moto inconsulto, il groppo da credine che le serrava la gola. Così s'avanzò verso Emanuela, le fu vicina, immobile come a fiutarla, poi alzò una mano e gliela lasciò ricadere sul viso. Lo schiaffo risuonò seccamente nella camera, ricolmò il vuoto del silenzio attonito che s'era formato intorno alle tre ragazze. Augusta! Emanuela esclamò e arrossì, più che per il colpo, per la vergogna. Guardò Valentina cercando aiuto, ma capì che era inutile. Allora si lasciò cadere, seduta sul letto, e le fissò stravolta, attendendo da loro chissà che altra rovina. Senza pensare a ribellarsi, comprendendo di essere completamente in loro balia. Il busto piegato, il viso accanto al viso di lei, anelante, Augusta le diceva con voce soffocata e torbida: Ladra! Riprendendo fiato, poi tornava a ripetere quella parola, come se, cercato nelle pause un'ingiuria più forte, confusa dall'ira, non riuscisse a trovare che quella. Ladra, ladra! Emanuela ascoltava, immobile, sbattendo le palpebre ogni volta, come se fosse stata schiaffeggiata di nuovo. Ladra! Augusta ripeteva astiosa. Sappiamo tutto. Andrea ha parlato con Valentina stamani. 2 anni che sei qui e sai tutto di noi. T'abbiamo detto cose che non t'avremmo detto se t'avessimo conosciuta. Sei venuta a rubare, ladra, ladra! L'insulto soffiato con voce fosca sembrava assorbire tutta l'aria della stanza. Le basse pareti lo trattenevano attorno a Emanuela. Era caduto un pauroso silenzio nel quale i secchi singhiozzi della ragazza restavano sospesi. Tutto infieriva contro di lei. Inutile difendersi, non sapeva più dove rivolgersi, la bugia la stringeva, la soffocava, ne sarebbe morta. Che sei venuta a fare qui? Non era luogo per te, te l'avremmo detto, che aspettavi? Credevi che tacendolo il passato potesse distruggersi? Rammento che Silvia subito ti sentì diversa e disse: Che cosa è venuta a fare qui? Tu allora con occhio tranquillo incominciasti a snocciolare bugie. Pensavi che cambiando lo scenario anche tu ti saresti cambiata? Saresti ritornata a quella di prima? Non sai che tutto è possibile nella vita fuorché tornare indietro? Le strade sono tante, ognuno crede di prendere la buona, va, va, e poi a un tratto s'accorge che ha sbagliato. Tutte vorremmo ricominciare, ma gli atti che ci hanno accompagnata fin lì sono alle nostre spalle attraverso la strada a fare argine. E indietro non si può tornare, nessuna torna indietro. È la più inesorabile forma di eguaglianza di tutti gli uomini e le donne di fronte alle leggi della vita. Fece una pausa e poi riprese. Xenia non è più venuta a bussare alla porta del collegio. Chissà dov'è? Che fa? Continua a camminare e noi non torniamo alle nostre case. E tu volevi? Non sono io che ho voluto, Augusta, credimi, ascoltami, non ho voluto mai nulla, ho trovato sempre tutto pronto e non mi è restato che adattarmi, mettermi a viverlo. Neppure l'altro giorno, quando eri a letto, hai parlato. Neppure il dolore di lasciare Andrea ti ha fatto perdere il controllo. Te stessa, sempre avanti a tutto, noi capivamo che la cosa era finita, il matrimonio è andato a monte, senza domandarti ragione, eravamo pronte ad accoglierti, Valentina e io, nella nostra vita. Ma abbiamo intuito, come Silvia il primo giorno, che qualcosa di te ci sfuggiva e tu ti nascondevi dietro la tua ombra. Valentina non parlava, s'appoggiava al braccio dell'amica. Non erano più che una sola persona, indefinibile e scostante. Devi andartene adesso. Che stai a fare qui? Qualunque essa sia la tua vita, è migliore della nostra. Qualcosa di te rimarrà, tua figlia. Anche quando tu muori, quella continua. Io volevo stasera, avanti a tutte, dirti vattene. Poi ho pensato che non è colpa tua. Ci sono esseri che nascono come te già mancati, indifferenti. La tua cosa migliore, tua figlia, forse sarà venuta a te senza che tu la volessi. E il grido della suora lacerò l'aria. Luce! Poi il buio si franse nella stanza. A tentoni Valentina accese la lampada. Il buio, mormorò Emanuela. Scendi al tuo piano, c'è la luce. Che ti importa del buio che resta qua dentro? Tu domani sei fuori, te ne vai. Vi fu un silenzio penoso. Nei corridoi porte s'aprivano, si chiudevano. Adesso, nell'attenta pace, si udivano venire voci dalle camere vicine. Ingrid discuteva con le amiche. In ogni camera c'era una lampada accesa, questa era la vita del collegio. Poteva scendere, cercare Ingrid, dirle: Vengo con voi. Ma dopo quanto stasera era accaduto, il mescolarsi di nuovo a quella vita, allo spirito con il quale le ragazze trascorrevano quel periodo d'attesa, le apparve cosa puerile, come un adulto che si mette a giocare, a nascondarella con i bambini. Non c'era più nulla da difendere ormai, nulla più da salvare. E papà, poverello, parlava in retorica: la vita si rifà, la vita si ricostruisce. Non è una casa battuta dal ciclone, la vita. La vita seguita, i mesi, gli anni rotolano e noi con loro. Emanuela era stanca, stanca. Alzò gli occhi verso le amiche, perché la vedessero così disfatta e ne avessero pietà. Augusta aveva preso una sigaretta per lei, una per Valentina, le loro mani grasse avevano gesti simili, comandati da uno stesso istinto. Poi colmò il suo bicchiere, quello dell'amica, e le disse: Tieni, cara. Era già come se Manuela non fosse più nella camera. Il bicchiere in mano, le ragazze la guardavano, quasi a chiederle che cosa aspettasse. Me ne vado, Emanuela disse alzandosi, e le altre due non la trattennero.